Va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Enzino e Marzi, alla conduzione tecnica Simone. Une. Giovedì 2 aprile 2015, 19ª puntata della seconda edizione di Piazza Alta Radio F. Finalmente un altro giovedì è arrivato, tra l'altro questo è un giovedì santo, baciato da tutti i crismi, per cui più di così, a parte che il nostro caro Marzi c'ha anche io sono stato baciato e c'ha un po' di febbre, circa 38. No, io ecco, volevo subito dire una cosa, se potremmo lanciare un po' un piccolo concorso. Ma se vi piace più la voce, la tonalità di stasera, fatemelo sapere, così che ti inocula un virus tutti i mercoledì e andiamo avanti. Iniziamo subito, a frappè. E iniziamo belli carichi. Dopo il giovedì santo i Black Sabbath. No, allora aspetta, no, spiego perché. La scelta è ottima da parte di Simone. Questi erano i Black Sabbath con Paranoid. E un brano addirittura del 1970, pensa te caro Marzi. Ma è venduto oltre 10 già all'epoca milioni. C'erano degli strumenti musicali. Ma c'è da dire che c'è da dire questo, che Simone l'ha scelto proprio per te, per cercare un attimino di scuoterti dal tuo torpore. C'ho un brivido lungo la schiena, ma non è sicuramente è la l'accordo in do maggiore. Vuoi provare te o faccio io a dire come possono ascoltarci i nostri amici senza correre il rischio di ammalarsi, perché il tuo microfono non si espande. Ma qui siamo effettivamente nella protezione più totale, perché attraverso 101.2 in FM sì, bravo, oppure in streaming, certo, su www.radiof.it. Ma se io poi invece avessi uno smartphone, potresti scaricare la app sia per Apple che per Android e potresti ascoltare. Ma l'app come si chiama? Questo è chiaro, Radio F. È chiaro. Mi fai delle domande che veramente alle volte mi lasciano. E per fare un sunto un po' di tutti i modi di poterci ascoltare, da domani lo possono rifare anche sulla app, sul nostro profilo Facebook, la nostra pagina Piazza Alta, che tra l'altro si sta avviando a falcate larghissime, verso larghissime, lasciamo, verso i 500 amici. Anzi, ditelo agli amici, perché dite agli amici che vi piace, no, così arrivati a 500, Enzo, crostini e paste per tutti, eh. Benissimo, benissimo. E in più, da non dimenticare, anche la pagina, scusami, il canale YouTube, sempre. Ecco, quello è un pochino più difficile, ci vuole un po' di stomaco, perché già perché, oltre alla voce c'è le immagini. Infatti non vedo l'ora che va, che, aspetta che lo ridico meglio, eh. Ma insomma, quando andrai in onda, ecco, certo, questa puntata, il tuo maglioncino di ciniglia blu sarà esaltante. Però mi tiene caldo. Però c'è da dire che hai i tuoi motivi, almeno certo, stasera hai i tuoi motivi. Ma avendo finito le bischerate, Piazza Alta di che cosa parla? Parla, allora, di Foiano, dei foianesi, ma non solo di chi è nato a Foiano. Stasera parliamo di qualcuno che foianese non era, ma che lo è diventato, ma che lo è diventato e ha lasciato un segno. Infatti, se siamo qui a parlarne, evidentemente ha lasciato un'eredità importante. E con chi siamo a parlarne, allora, stasera? Ricordiamo intanto di chi parliamo, poi dopo veramente faremo le tappe del come è arrivato a Foiano, di quello che ha fatto a Foiano, del fatto che purtroppo tragicamente e prematuramente ci ha lasciati. Parliamo di Michele Di Trani, che esatto, viene ricordato, forse i più giovani non se lo ricordano, ma che comunque è stato, tra le altre cose, assessore. Ma poi ne parleremo meglio. Ma con chi lo facciamo, Marzi? Con chi lo facciamo? Con Roberto Menchetti. Buonasera, Roberto. Buonasera, buonasera. E con Mauro Del Santo. Che parola è Franco, ma non importa. Chissà perché ti ho ribattezzato subito stasera. Ma il calciatore, l'omonimo, solo lui 40 kg. Allora, rifaccio. Abbiamo Roberto Menchetti. Buonasera, Roberto. Ciao. Buonasera, buonasera. E Franco Del Santo. Buonasera, Franco. Buonasera. Vabbè, ha la febbre più di 38. La rifaccio, questo, guarda. No, basta. Ha veramente più di 38, quindi è comprensibile. Io direi che siamo a posto per il momento. Preparati qualche altra gag, perché questa è venuta benissimo, Marzi. E andiamo col prossimo, no, che è bellissimo. E poi iniziamo a parlare di Michele Di Trani. People make them rogue and hurt. Bad things happening to good people. To good people make them rogue and hurt. I was wondering yesterday, why is this world such a hard place to stay in? Is it cause the sky is blue? Is it cause the clouds are moving too? Is it cause the universe is expanding? Oh, bad things happening to good people. To good people make them broken and hurt. Bad things happening to good people. To good people make them broken and hurt. Mr. Candy was a nice old man. Got run over by a Mercedes Benz. Now he goes around in a chair. You see, this world is unfair to people like you and me and poor Mr. Candy. Oh, bad things happening to good people. To good people make them broken and hurt. Bad things happening to good people. To good people make them broken and hurt. Mrs. Plummer was a nurse at the school. Stabbed in the head with a rusty spoon. Walking past the Newton Hotel. Now she can't read that well. Lives in a house with big grids in the windows. Oh, bad things happening to good people. To good people make them broken and hurt. Bad things happening to good people. To good people make them broken and hurt. I was wondering yesterday, why is this world such a hard place to stay in? Is it cause the sea is blue? Is it cause the wind is blowing too? No matter what you say or do, one fine day you're gonna find yourself sinking in a pool of bad things. Too good people, too good people make them broken and hurt. Bad things happening to good people, too good people make them broken and hurt. Oh, bad things happening to good people, too good people make them broken and hurt. Bad things happening to good people. è l'amico Bludin Carcione, quello che avete appena sentito. E quando dico amico, al quale mandiamo un caro saluto, un caro saluto, detto anche James Dean Carciofone e tante altre cose, da Trevi, vicino Foligno, ma forse originario anche dell'Oklahoma. Ha una storia, sì, un po' particolare, non abbiamo approfondito troppo. Ci sono molte biografie sulla, sì, sì, sua vita, e nessuna vera, quindi è ottimo, dire? Diciamo perfetto. Oh, ma finalmente iniziamo a parlare con i nostri ospiti. Di che cosa, Marzi? Intanto come stai? Sto bene, ma non, vai tranquillo, vado in scioltezza. Vado al bagno. Dimmi, parliamo, dimmi. Se mi, poi mi fai ridere, caro, è vero. Allora, ma poi tossire, sei. Sì, lo so, no, ma non voglio. Di Michele Di Trani, ecco, che come dicevo nella mia introduzione non era un foianese. E abbiamo qui appunto Franco Del Santo e Roberto Menchetti perché ci piace ricordare questa persona, perché ha lasciato un segno indelebile a Foiano. E cerchiamo di capire perché, però. Ecco, intanto volevo chiedere appunto a Franco e Roberto, tanto per capire un attimo chi era Michele, per farlo capire a chi non lo conosceva, quanti anni è stato a Foiano? Tanto per dare un'idea, Franco. Ma io ci provo, pur avendolo conosciuto bene dall'85 al 90, anche per ragioni di lavoro, ma non solo, per ragioni di relazioni personali. A me sembra che Michele sia arrivato a Foiano tra l'80 e l'81. Ecco, io questo ve l'ho chiesto proprio perché, per far capire che veramente in pochi anni ha fatto breccia nei cuori dei foianesi e ha fatto anche delle grandi cose. Da dove veniva? Lui da dove veniva? Era originario all'incirca Pisticci, della Pisticci, veniva, Pisticci, provincia Matera. Matera. Ah, Matera. Noi ce l'abbiamo nel cuore per tanti motivi, insomma, questo è un motivo in più. E quindi lui è arrivato a Foiano e da subito ha iniziato a intraprendere un'attività politica e comunque culturale, perché poi lui è stato assessore alla cultura, giusto? Sì, Michele nasce a Pisticci, a quello che mi ha raccontato, che mi ricordo, fa l'università a Bologna, in medicina, si laurea ovviamente perché magari ci si ricapita dopo sull'argomento a pieni voti, si specializza in medicina del lavoro, vince una specie di borsa di studio, chiamiamola così, verso il Tirreno, e okay, poi è stato un avvicinamento a Foiano tramite concorsi, quindi la vincita, voglio dire, di un posto di medico del lavoro nella nostra ASL. Appunto, a quello che mi ricordo sono gli anni 80-81 e forse mi verrebbe da dire anche il 79, perché Jacopo, il figlio, nasce nell'81 e nasce a Foiano. Ah, ok. Quindi siamo in quegli anni là, sì, sono passati, diciamo, così il lasso di tempo, sono, se non sono 9 sono 10, sì, sono 10, siamo sono in quegli anni là, sì, sono quegli anni lì, là. Esatto. Lui non è che immediatamente sceglie, diciamo così, la via politica, però essendo con naturale, voglio dire, alla sua passione, entra immediatamente in contatto con l'amministrazione locale per avviare un percorso che poi appunto culmina, e purtroppo culmina perché, no, certo, nell'85, quando diventa assessore per 5 anni, assessore alla 90, cultura, sì, assessore all'inizio alla cultura e alla scuola, e poi per la sua passione, che era straordinaria per la cultura, fece capire che proprio della scuola non se ne voleva interessare per niente, anche perché era una grande rottura di scatole allora come ora, e ve lo dice il responsabile dell'ufficio scuola del comune, e secondo me fece una scelta molto azzeccata anche per i risultati che ha sortito. Certo, certo, sì, perché poi assorbendo più tempo, cioè dedicando più tempo solo alla cultura, effettivamente i risultati sono stati ottimi. Vogliamo iniziare magari a ricordare che ne so, le prime tappe proprio da assessore, le prime cose che ha fatto, che vi ricordate, non necessariamente in ordine cronologico, per cui insomma Michele viene tuttora ricordato. Cioè, oppure quali erano le caratteristiche che l'hanno differenziato da chi l'ha preceduto e da chi l'ha succeduto? Beh, io penso, ora Franco probabilmente si riguarda a dirlo, ma insomma io penso che quegli anni in cui lui ha fatto questa esperienza da amministratore dall'80 all'85, che ha lavorato con Franco Densanto, con Giampiero Luatti, hanno prodotto tantissimo in termini culturali, ma sia nelle cose che ancora rimangono, nei testi, nei libri, nelle pubblicazioni che loro hanno fatto, ma anche in mostre, in altre iniziative, ma anche innovative per quell'epoca. Insomma, quindi probabilmente sono stati i 5 anni dell'ultimo periodo che è stato prodotto di più in termini culturali. Hanno fatto tantissimo per il carnevale, e poi vabbè, insomma, ci sono anche gli altri aspetti degli investimenti, sì, anche sì, sì, in materiale umano. Mi sembra di capire, Roberto, che comunque avesse cercato di dare un ritmo, un passo diverso a quello che magari era stato un po' l'approccio fino a quel momento, all'aspetto cultura, all'aspetto promozione sia anche turistica che di valorizzazione anche del territorio, di quello che magari poteva essere una risorsa delle nostre zone. Sì, lui era avanti, era decisamente avanti, insomma. Allora facciamo così, ci fermiamo un attimo con questa dichiarazione e da ora in poi, dopo il prossimo brano, svisceriamo un po' meglio, entriamo un po' più nel dettaglio. Questa era il Vevcura con Oxymoron, perché ma è un gruppo italiano, ma lo fanno apposta per me, per dissimulare, ma no, fanno bene. no, fanno così, cioè si potrebbero chiamare Beppino e i suoi fratelli, no, dice, siccome un giorno Enzo leggerà qualcosa alla radio, faccio, troviamo, no, scherzi a parte, bravissimi, è il loro estratto da Good Morning Utopia, eh? Bellissimo, grazie, come va la febbre? Va bene, sale, sta salendo. Allora, continuiamo a parlare di Michele Di Trani, dalle prime parole che ci hanno detto i nostri ospiti Roberto e Franco, insomma stiamo iniziando già a capire dello spessore della persona e anche dalla commozione che traspare un po' mentre dalle ne loro parlano parole. Esatto, e vuoi dire qualcosa? No, no, Marzio? Prego. Ah, pensa, un rigurgitino. No, no, vai tranquillo. Sto scherzando, no, mi interessa lo molto. Prendo in giro. Ti dico la verità, insomma, interessa molto questo fatto di una persona, diciamo, con cultura elevata, che si trova in un, diciamo, in un ambiente diverso che impara a conoscere, che impara a conoscere e trova tutti gli stimoli positivi per cercare di creare un po' di, come dire, dillo con parole tue. Sì, non no, guardare se, così no, per cercare di fare delle iniziative che creino anche un po' di storia, un po' di attività di promozione, cose che noi, diciamo, con le anche con le nostre puntate cerchiamo di un fare, po' di rinverdire, di portare avanti. E proprio per questo parlavamo fuori onda, ma adesso Franco del Santo ce ne parlerà meglio. Michele è stato proprio l'ideatore anzi proprio l'iniziatore delle pubblicazioni dei libri sulla storia di Foiano, del carnevale e non, giusto Franco? Cioè tutto quello che abbiamo oggi parte da lì, parte da voi, perché comunque anche tu, insomma, sì, facevi parte. Sì, ti ringrazio, no, mi fa piacere e accetto quello che non è un complimento ma un fatto reale. Esatto, e l'accetto molto volentieri e lo porto con me. Cioè, Michele, poi magari ne parliamo anche meglio dal lato umano, perché certo, secondo me la sua ricchezza era soprattutto come persona, però se lo vogliamo vedere come amministratore, Michele è l'inventore della cultura foiano, inventore proprio, nel senso che prima di lui le iniziative culturali, ricreative, ludiche, chiamiamole come vogliamo, avevano comunque una dimensione episodica. Ci poteva essere gli zampognari a Natale, ci poteva essere la banda in un determinato momento, e Michele invece ha inteso questa funzione proprio come un tentativo perfettamente riuscito di dare sistematicità, cioè continuità, a tutta una serie di attività e di interventi finalizzati alla valorizzazione di quello che siamo o alla riscoperta di quello che non siamo. Quindi è stato un tout court. E in questa azione, appunto, ripeto, pienamente riuscita, c'erano alcuni punti fermi. Il carnevale per lui, ora magari vado troppo avanti, no, ma non ci sono problemi. Però io l'ho scritto già, cioè mi sembra che l'ha firmato Michele, però l'ho scritto io nel 1988, ma viene ripreso nel libro di prossima pubblicazione che sembra che faremo a giugno. Michele si fece una domanda provocatoria, se la fece con me: ma il carnevale è l'identità culturale di Foiano? Okay. Molto forte, bella domanda. Molto forte, ogni risposta è sbagliata, è esatta. Però non so se è una domanda che divide o unisce. Ma appunto ognuno porta le sue, però era sicuramente stimolante. Ci ha investito tanto, non ha esaurito le sue energie, perché ci mancherebbe, c'è stato appunto il fondo del Furia, il fondo fotografico del Furia, che è una chicca, ma è una chicca non per Foiano, è una chicca a livello nazionale, e l'ha stimolato lui, non ha chiuso poi l'operazione perché migliaia di lastre eccetera eccetera, ci ha lavorato mezzo mondo e qualche cosa di contorno. Quindi che vi devo dire, io ho un ricordo bellissimo di quest'uomo, perché il nostro rapporto è nato come un rapporto professionale. Noi ci conoscevamo già prima dell'85, perché lui abitava nel palazzo sopra il Giugnoli. Sì. E lì c'era anche la mia sorella che abitava, quindi capitava di incrociarsi. Di incrociarsi, ciao come vai, eccetera. Poi il bambino Jacopo aveva un anno più dei miei nipoti, eccetera. Però l'ho conosciuto benissimo dall'85. Il rapporto professionale è diventato un rapporto amichevole e straordinario, perché ora mi fermo, poi rientriamo dopo. Michele, appunto, più che un amministratore oculato, più che un politico all'avanguardia, come ha detto Roberto Di Anni, perché se si vuole, consentitemi l'apostasia, quello che c'è dall'Ulivo un po' se l'è inventato lui a livello locale, però Michele era una persona eccezionale dal lato umano, di una bontà che non vi potete immaginare, e lui è stato amato da questa popolazione, soprattutto come uomo. Certo. Poi tutto quello che è avvenuto, eccetera, eccetera, sono stati apprezzamenti, ma Michele come medico, e ci entro dopo perché ci voglio entrare, ma soprattutto come uomo è stato veramente una sorpresa, anche perché è vero che questo paese è sempre aperto. Sì. Verso chi viene di fuori non si chiude, ma l'apertura che ha avuto con Michele è straordinaria. È sicuramente ancora questa. Ancora 25 anni dalla morte, siamo qui a parlare, per dire qualcosa, più di qualcosa, meno di qualcosa di lui, vuol dire che qualcosa è stato seminato. Certo. Beh, io direi che ci ascoltiamo un altro brano. Riprendiamo fiato un attimo. Esatto, no, non c'è niente da aggiungere sicuramente. Had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Oh, siamo tornati negli anni 70, facciamo un po' negli anni 2010, un io po' ero anni piccino. 70. No, te non c'eri ancora perché era il 1970, questi erano Emerson, Lake e Palmer, erano tre. Tre. No, non lo so. Erano tre. Lucky Man, comunque è famosissima, anche io. Te Marzi con 39,2. Mi sembra, cioè la mia mamma praticamente mi ci addormentava la sera. Invece della ninna nanna. Oh. Ecco perché sono così. Ecco perché hai la febbre. Ma volevo dire una cosa. Ma puoi dire tutto quello che vuoi. Franco, prima sul finire dell'intervento, mi ha stimolato su una domanda. Su Foiano, che diciamo è un paese che accoglie, è un paese che tende a integrare, insomma, le persone che arrivano in paese. E volevo sapere, secondo voi, se diciamo quel buono di cui stiamo parlando stasera di Michele Ditrani sarebbe stato comunque diciamo stimolato dalla sua persona in qualunque posto, oppure c'è stata una commistione, esatto, un humus positivo e avrebbe in ogni caso, in ogni luogo potuto dare quel suo impulso diciamo alla vita sociale dei paesi. Chi vuole dire una parola? Franco, te la senti? Sì, perché dopo Roberto ci deve dire altre cose. Fermo. Si sta preparando. No, non ti fermare. No, poi mi fermo per qualche secondo. Per qualche secondo, sì, sì, certo. La domanda è di una difficoltà. Non la domanda, la risposta è di una difficoltà enorme. La domanda è intelligentissima. Ma ora ti ringrazio, Franco. No. È la febbre, no, ma è la febbre. Allora, io... cosa sarebbe successo a Sarteano, a Vibo Valentia, questo non te lo so dire, però di una cosa sono convinto, che Foiano, per la sua storia, che è una storia di paese commerciale, sì, è aperto al forestiero, è aperto oggi come era aperto prima della guerra e come è stato aperto dopo la guerra. Da queste finalità, ora qui mi beccherò un sacco di critiche, speriamo non ascolti nessuno. Ecco, da queste finalizzazioni, soprattutto economiche, secondo me si è creato un arricchimento culturale dei singoli e della collettività enorme. Perché quello che accade a Foiano, ripeto, come linea generale di accoglienza verso chi viene di fuori. Di qua, di là, di sotto e di sopra, non è che nemmeno in realtà vicine ci si avvicini minimamente, e secondo me è la storia di questo paese, però mi rendo conto di esprimere un giudizio forte, molto soggettivo, perché il mio perdonatemi se sbaglio, altro che perdonatevi, cioè è importante perché comunque hai anche un'esperienza dal punto di vista pubblico importante, per cui insomma se lo dici è a ragion veduta, insomma, voglio dire. Mentre invece volevo chiedere a Roberto, entriamo un pochino più nello specifico prima di passare poi al lato umano, perché ci avete da raccontarcene delle belle su Michele, che io ho conosciuto, ma ero ancora un ragazzino o poco più, mentre voi, insomma, voi ci avete condiviso, molte cose con lui. Ma parlavamo, per esempio, delle pubblicazioni. È tutto partito da lì, perché adesso il comune Foiano, o col Carnevale, o in altre manifestazioni, ha comunque una biblioteca importante. Però dicevamo che è partita da lì. Roberto, ci puoi ricordare qualche titolo, qualche filone, qualche cosa, insomma, riguardante appunto queste pubblicazioni? Ma sì, il discorso dei libri è nato, ma soprattutto ha preso una connotazione anche di collana, nel senso che esatto, non era più un'iniziativa sporadica, se erano accadute prima, ma insomma, o comunque ce n'erano state molte poche di esperienze in questo senso. Però lui ha iniziato a lavorare, per esempio, sul Carnevale, lo dicevamo prima, con la Gioconda Re di Paglia, la storia che vada, insomma, negli anni, che racconta, insomma, la storia del nostro antico carnevale, ma anche con i cantieri. Lui ha iniziato a stimolare, che poi si è innescato un meccanismo cui tutti, esatto, dopo poi la competizione, cioè prende la competizione anche lì, e ognuno, insomma, ha iniziato a scrivere i libri della storia del cantiere proprio, ma come anche questa interessantissima pubblicazione rispetto, lo dicevamo prima, dell'archivio del Furia, questo grandissimo fondo fotografico, di cui questo patrimonio che ha Foiano, di questo appunto fotoamatore, questo foianese farmacista che ha prodotto migliaia di lastre con una tecnica allora, cioè, quasi che nemmeno si, insomma, conoscevano. E appunto Michele ha iniziato a lavorare su quell'archivio e come dire hanno, insieme a Franco, insieme ad altri, fatto una pubblicazione, insieme a Marcello Fatucchi anche, fatto una pubblicazione che è stata portata al SICOF a Milano, che era una grossa fiera, una grossa mostra internazionale di fotografia, insomma, avendo un notevole successo, insomma, grandi nomi si sono avvicinati, hanno apprezzato e hanno, come dire, anche conosciuto in quell'occasione questo grande patrimonio foianese. E poi anche successivamente, o insomma sempre in quegli anni, questa grande mostra Segnali di fumo, l'indiano eterno, questa parliamone perché veramente questi materiali che ha Sergio Susani, e appunto anche lì è stata fatta una mostra, penso, di livello, insomma, altissimo per quell'epoca. E anche lì io vi inviterei a chiedere a Franco, però, perché lui era uno dei protagonisti di queste cose, cioè, lui c'era, se lui dice di no, ma lui c'era sempre o c'era perché era autore di qualcosa, o c'era perché per lavoro, comunque sia, era coinvolto, era responsabile dell'ufficio culto, quindi lavorava con Michele, quindi però insomma. E poi, se ci volesse raccontare anche di qua, poi guarda Franco, gli editori del Grifo, anche lì è stata una diteci insomma, una bella casa editrice dell'epoca, con la quale appunto fu avviato un bellissimo percorso. Noi ci rivolgevamo allora, tanto per fare un minimo esempio, per gli editori del Grifo pubblicava, come si chiama quello che sempre alla fine, si appartiene a Andrea Pazienza, il disegnatore migliore, Mollica, quello che è sempre in televisione, sì, sì, certo, insomma, certo, ora mi sfugge il nome, pubblicava per gli editori del Grifo perché veniva da Radio Maremma e quindi eravamo contattati, ma soprattutto erano in contatto con tutta una serie di disegnatori tramite i buoni auspici di Andrea Pazienza, che è stato uno i più grandi disegnatori europei e che viveva a Montepulciano. Quindi editori del Grifo Montepulciano, Andrea Pazienza, Eschauren, LK, era tutto, e Foiano ovviamente arrivava da ultimo, per cui delle bellissime cose, insomma. Ma tra l'altro mi sembra, l'hai detto te prima Roberto, prima di iniziare il programma, Michele Ditrani era anche una persona che, oltre ad avere queste capacità quindi organizzative eccetera, si dava anche da fare proprio manualmente, era un aggregatore no, ma no, perché mi dicevi che per esempio proprio per Segnali di fumo la promozione è avvenuta andando comune per comune a presentare questa manifestazione, e era lui che andava a presentarla fisicamente e a consegnare i volantini, esatto, sì, e a cercare gli sponsor, cioè, quindi non è solo quello che aveva l'idea, era anche proprio un manovale della cultura. Ma in questo sì, ha rappresentato una novità che però devo dire è stata anche proseguita, e mi riferisco a chi è venuto dopo di lui, Paolo Cateni, La Vincenza e Marcello, cioè in un comune piccolo, perché noi siamo un comune piccolo, l'amministratore non si può mettere in cattedra. Certo. Bisogna che faccia quel poco o quel tanto che sa fare. E insomma, è capitato, c'ero anch'io, di dover portare le locandine per queste iniziative in giro dei comuni. Magari è capitato anche di dover anticipare qualche centinaia di migliaia di lire dell'epoca, perché l'Angela Tiezzi, l'economa, non ce l'aveva data. Ma sono cose, voglio dire, particolari. So quel, no, magari sì, particolari, non generali, che però ti fa anche piacere ricordare, certo. Anche perché è evidente che prima o poi questi soldi ti ritornavano, insomma, un dei che l'avresti regalato. Michele, sì, era così, ma ti ripeto, l'hanno fatto altri, perché è quasi naturale, insomma, vedere. Tanto c'è, sente Marcello Fatucchi che prende dei chiodi, boh, boh, boh, insomma, ma chi se lo immagina? Eppure l'ha fatto, capito? E questa è un po' la passione che metti nelle cose che ma ami. Roberto, stesso se la mente. No, non ma lui non lo cito perché è qui. È qui, esatto, l'assessore alla cultura. E che quindi avrà attaccato anche lui due chiodi. Ma dire. Lo fanno tuttora, perché non se ne può fare. E su questa immagine, ora poi andiamo ancora con un brano, poi dopo parliamo un po' anche dell'aspetto umano che ha fatto sì che poi rimanesse, oltre ai fatti veri e propri, insomma, rimanesse nel cuore di tutti Michele. Just let fall, and if you shout, I'll seven good runs to go. Just the bite and the clatter as an angel hits the ground. E finalmente ci volevate parlare di cultura per avere questa canzone Stay dal disco Zuropa degli U2. Bravo. Ogni altro commento, come scrive giustamente Simone, è superfluo. Oh, guarda, siamo tutti contenti ora. Ora anch'io, anch'io. No, soprattutto te. E allora proseguiamo dopo le lacrime di gioia di Marcello su questa canzone. Proseguiamo. No, è la cipolla. No, queste sono le medicine che non fanno effetto. A parlare di Michele di Trani, questa sera lo facciamo con Franco Del Santo e Roberto Menchetti. Abbiamo un po' velocemente, perché il tempo purtroppo non ci permette di fare in altro modo, un po' fatto un volo, ripercorso un po', volo, tinteggiato qualcosa, esatto, del nostro paese e di Michele, e di che quello che diciamo ha mosso, ha contribuito, Michele, a muovere, sì. Ma vorrei parlare negli ultimi, gli ultimi 10-15 minuti che ci sono rimasti, dell'aspetto invece personale proprio di Michele, perché da quel poco di cui abbiamo parlato fuori onda, insomma, era una persona gioviale, divertente, con cui si stava bene insieme, l'abbiamo anche detto un po' in radio, e c'era una delle caratteristiche che Franco ci diceva prima fuori onda, era il guidare, era un grandissimo autista, vero Franco? Sì, sì, uno dei migliori in circolazione all'epoca. Penso veramente senza aggettivi, sono doni di natura, anche guidare in quel modo è un dono di natura. Evidentemente non era il massimo, diciamo, come autista. Ma raccontateci qualcosa, ecco, qui chiedo aiuto a Roberto, che sicuramente ha vissuto un po' di più ha vissuto di più di noi sicuramente quei momenti, e magari può sollecitare Franco a ricordarci qualcosa di particolare. Prima sentivo parlavate di mongolfiere, parlavate di trench bianchi in fondo alla scalinata, insomma, Roberto, fai te. No, vabbè, io le so per sentito dire dopo. Okay. Franco ovviamente è il protagonista insieme a Michele di queste cose. Cioè, tipo, le prime volte che Michele è venuto, insomma, che è arrivato a Foiano, e con la sua barba, le sue camicie di fuori lunghissime sopra i pantaloni, oppure questi giubbottoni di jeans, insomma, pare che come dire, un giorno aspettasse una persona, aveva dato un appuntamento in fondo alla scalinata della torre alla Palla e stava lì e aspettava. Passano i carabinieri, fanno un primo giro, dopo un po' ripassano i carabinieri, fanno un secondo giro, insomma, al terzo giro si fermarono, dice: ma lei, scusi, chi è? con queste fattezze, esatto. Poi insomma era un amministratore del comune, insomma, cioè, l'altra cosa è qui Franco. C'è Franco che la cosa della mongolfiera l'avevano organizzata loro, nel senso, questa io non so nemmeno per quale motivo. Io mi ricordo che c'era questa mongolfiera che dal centro dello stadio, del campo sportivo a di Foiano, si alzava, e c'erano tutti i foianesi che erano lì a vedere questa mongolfiera. Tra l'altro, serviva come momento di promozione di qualcosa, aiutami Franco. Ecco, che dopo mi ricordo questa mongolfiera è partita, è arrivata fino a casa, insomma, poi ce lo Franco, Franco racconta. Questa mongolfiera, sì, parte con Michele a bordo a questo punto? Sì, fu un'iniziativa che non mi dite come nacque, se leggendo il giornale, all'epoca non c'era internet, insomma. E venne fuori appunto di prendere una mongolfiera di una ditta della Val d'Aosta, che poi è un'impresa individuale, perché lassù facevano tutte queste belle cose, di portarla a Foiano, e praticamente come momento promozionale del carnevale la domenica precedente, quindi sera gennaio. Ok. Quindi anche temperature, diciamo. Ah, nello Charbonnier. Ogni tanto l'Alzheimer dà di questi difetti, per cui nello Charbonnier era appunto questo signore che arrivò con questa mongolfiera, ci costò un asino, ci costò abbastanza, diciamo la verità. Okay. E va bene, la domenica mattina, dopo una settimana splendida e piena di vento, La mattina della domenica erano state invitate tutte le scuole, per cui si era fatta una campagna a tappeto. Non vi immaginate la gente che c'era, perché non era freddo, ma non c'era manco il vento. E il problema fu quello. Allora, quando aspettarono perché mi chiesero di salire, io ovviamente cuor di leone rimasi a terra. Quando s'alzò un refolo di vento, partirono. E fatto sta che, passato a poco scesa, anche quel poco di vento che c'era si calmò e atterrarono in un campo dove praticamente la mota arrivò più su delle ginocchia. C'erano anche delle foto che poi Michele fece sparire perché quasi si vergognava. E questa foto appunto è di quella mattina, quella che abbiamo anche pubblicato. Sì, sì, che lui vestito col suo solito giubbotto pesantissimo di jeans, lui vestiva così. E appunto mi ricordo che quindi poi andaste a riprenderlo? No, quando c'è da fare qualcosa fanno altri. No, andarono a riprenderlo, ci furono alcuni, perché poi il bello fu che dei bambini volevano salire. E meno male che si fecero salire, perché immaginate che succedeva. Però Michele ne ha fatte tante, per l'amor di, cioè ne ha fatte tante, ne sono successe tante. Questa è carina. E insomma, ce ne sono. Io, se hai qualche altro ricordo, noi ti ascoltiamo volentieri. Oppure, se vuoi dire qualcosa. No, io voglio dire una cosa che forse l'ho già detta. Michele, innanzitutto, era una persona molto intelligente. E questo, vabbè, soddoni di natura. Certo. Era una persona istruita, io direi dotta, perché aveva appunto conseguito la maturità classica, ci appassionavano le schermaglie in latino e in greco, questo, ma lui l'aveva conseguita con 60 sessantesimi, e si era laureata a pieni voti appunto a medicina a Bologna, e era un medico di prim'ordine, Michele, perché è vero che si era specializzato in medicina del lavoro, ma lui era il medico. E ora, con la passione del... Quindi io te la dico corta, nei primi 2 anni della mia nascita il pediatra l'ha fatto Michele. Ah, addirittura della nascita del... Ma perché ci capiva più dei pediatri. Io ho visto Michele, e ora sarò anche un pochino aspro, diagnosticare un tumore al bar, perché quando la bontà del personaggio, la conoscenza del personaggio, ma soprattutto appunto l'essere amico di tutti, faceva sì che quando si andava a prendere il caffè alle 9 si ritornava alle 9.45, perché al bar o quello aveva il raffreddore, o quello aveva qualcosa, o quello c'aveva da andare all'ospedale, o quello gli avevo riconosciuto l'invalidità, e qualcuno manco una volta gli perse più tempo appunto dicendo quelli che erano i suoi problemi. E mi ricordo che Michele, uscendo, disse: Franco, speriamo che non sia un tumore, anche perché era una persona che conoscevo. Okay. Era un tumore. Ecco, quindi diciamo anche dalle capacità eccellenti. Sì, quindi, no, e poi ora però non voglio parlare più. Cioè, secondo me la misura del personaggio la dà la morte. Cioè, Michele muore affogato per un infarto, non si sa. Sì, era a Marina di Cecina, torna a Fogliano, passa per Fogliano, previsto un breve momento, diciamo così, commemorativo, parla il sindaco, per poi partire verso Pistigi. Ecco, la gente che c'era quel giorno a Fogliano non c'è nemmeno a Carnevale. E era tutto chiuso il paese. Cioè, questa gente non è che piangeva il Michele amministratore. Certo. Piangeva il Michele uomo. Senza dubbio. Questo è un ricordo che ho anch'io personale, nel senso che c'ero anche io, eravamo tutti, poi per tanti motivi, ma insomma diciamo che effettivamente l'affetto in quell'occasione era proprio l'affetto per la persona. Sì. Mettiamo un altro disco, poi finiamo in allegria, promesso, assolutamente. Thank you. E questi erano gli Hair, caro il mio Marzi, con la Febbra 39.8, Cherry Blossom Girl del 2004, dall'album Talkie Walkie. No, sì, sì, ho detto giusto. Ma stasera ma incredibile. Ma sarà te c'è la febbre e io dico cose giuste. Ma guarda, pensa te. È strano. Oh. Siamo arrivati in fondo anche il tempo stasera. È tiranno. Però concludiamo con un altro ricordo, Roberto, che ti riguarda, insomma, riguarda una ti parte ti ha coinvolto particolarmente. È una parte, diciamo, dei giovani di cui abbiamo dell'epoca. Anche parlato in un'altra sì. puntata, era, diciamo, il tempo in cui un po' di giovani si erano aggregati e avevamo sfiorato anche appunto la persona di Michele anche in quell'occasione. Sì, sì, ne avevamo parlato proprio perché appunto avevamo parlato del Grass e credo che insomma sostengo che lui è stato quello che ci ha spinto, insomma, a metterci assieme in quell'esperienza. Michele ovviamente è stato il promotore. Noi assieme a Michele siamo andati a Montecchio Emilia al Festival di Tango. Allora c'era questo giornale allegato all'Unità, e a cercare Sergio Stein era un vignettista, proprio appunto perché lui avrebbe dovuto disegnarci la maglietta che poi il manifesto, e poi la maglietta avrebbe dovuto finanziare, come dire, le prime iniziative, fare un po' di cassa per fare questa festa dei giovani riuniti ambiente arte e spettacolo. E noi è da lì che abbiamo, come dire, ecco, abbiamo conosciuto Michele, io, Paolo Cateni, Stefano Scricciolo, e appunto quella volta siamo andati a Montecchio, un pomeriggio siamo andati e abbiamo trovato Sergio Staino, ci ha disegnato la maglietta, siamo ritornati col tovagliolino, la maglietta, il disegno su un tovagliolino di questi, la tovaglietta proprio tipo sotto piatto. Sì, tipo sotto piatto. E siamo tornati appunto, però citando anche, ritornando sotto l'aspetto del guidare, a un certo punto noi questi tre ragazzi, e con lui che era un po' più grandicello, diceva, si era anche mangiato un po', bevuto anche, ci guido io, ecco, allora un brivido nella schiena sull'autostrada, noi si era tutti dalla parte opposta, non so, al che qualcuno si fece coraggio, diceva, Michele, fermiamoci un attimo, e a quel punto ci si fermava un'area di servizio e lui non toccò più il volante, perché era noto, diciamo, per questo. Sì, sì, sì. Quindi per noi è stato, ecco, per me personalmente è da lì che poi, insomma, è nato il Grass. E una cosa, ritornando al lato umano, io mi ricordo che poi i soldi non c'erano per sta festa, o meglio, cioè andavano anticipati, ma chi li avrebbe potuti anticipare? E lui, io mi ricordo questa cosa, che lui riscosse lo stipendio dalla USL, ci portò lo stipendio, dice, ragazzi, questi sono soldi, iniziamo a programmare la festa, iniziamo, e dopo quando è? Beh, però più di così penso sia. Cioè, insomma, questo, la fiducia nei giovani. Sì, questo, diciamo, racconta ancora una volta, insomma, quello che era l'animo di Michele Dietrani. Noi abbiamo finito, ci rendiamo conto che ce ne sarebbe ancora tante da raccontare, e non è detto che non rifaremo un'altra puntata con Franco e Roberto e anche altri amici se vorranno partecipare per ricordare Michele Dietrani. Ringraziamo appunto Roberto Menchetti. Grazie Roberto. Grazie Franco del Santo. E l'appuntamento. Questa era Piazza Alta, questo aveva la febbre, questo che parla. Aveva, ma adesso finché era in vita aveva la febbre. E ci rivediamo, no, ci rivediamo no, ci risentiamo non giovedì prossimo. Perché? Enzo, perché forse ciò? Facciamo festa giovedì prossimo, e allora ci risentiamo fra due settimane. Ma comunque comunicheremo con il nostro, esatto, pubblico. Abbiamo le nostre pagine Facebook, il nostro canale YouTube, figuriamoci. Ricordiamo gli appuntamenti di sabato, per gli appuntamenti con il fine settimana che cura Simone, e oppure lunedì con una serata da Leone. Le so a memoria, sì, hai visto? Insomma, sono 2 anni che le facciamo. E per cui, insomma, avremo modo di comunicarvi. Probabilmente la settimana prossima, cioè noi andiamo in ferie domani per Pasqua e rientriamo fra 15 giorni. A proposito, vuoi augurare buona Pasqua ai nostri ascoltatori? Buona Pasqua dalle F frequenze. Grazie ancora Roberto e Franco, ci sentiamo fra 2 settimane. Ciao a tutti. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marzi. Alla parte tecnica, Simone. Oune, oune. Alle riprese, video, Alice. Ice, ice. Buona Pasqua. Dalle F frequenze. Asqua, asqua. Asqua, scusa.